notte rucinghe gennaia. Mi è capitato in un fatto strano assai, e mo tengo genie pur raccontare. Perciò aspettatevi sentite qua. Stiva sdraiato, ngoppolita lontana, rennotta napolitana, e stiva aspettando una bella cazzetta che mi portava sora ma befana. Quando così all'intrasa tare da finestra, foro balcone, spunta befana, che è una vecchietta con tutto scialla, ciabatte e bastona. Ah no, che facite, trasi da pierinta, va bene una cosa, con fritta che fa, la vecchia ma guarda in tano momento. In una donna mai trasuta già. Guaglio sua befana e sto qua di persona, perché ho fatto grosso, fatta importante. Non bastava calza per sta situazione, non bastava mancano pantacollante. La signora ma parla in un posto lontano, gente mai vista, ma fatta paesana. Ma dice che là per me sta un regalo, dice in fronte a me, ma chi è Babbo Natale? L'unica cosa che ti può aspettare è quella che arriva e ti regno cuore te l'ha già fatti. Guaglio sì papà, sulla che hai abbasciato l'equatore. Nerrenne, ma braccia befana, ma vaso ma strigna, faccia zumba, la riga che si steva più lontana, pure postessa senza ma farma, perché bella e buona son miracolata, a luce rosola non mi scarfa più, perché con tutta che ancora anzina dindo, cara mia, chi scarfa sì? Ma guarda come se guardano un pazzo che faccio chi aspetta solo un momento, piglia scoparò la taramazza e magliava in capa senza complimento. Poi mi capita con tutto che anziana scennetta risanta una a una ricetta con calma, signora Befana, poi con sta mazza ciarita coccaluna. Si ti fatta male, si stai a stamanna, si opera sta botta da sti vacciarenna, con magriscia creatura e diventa papà. Si manca una vecchia sai supporta. E senza parole rimango intrunata e sa marice, guaglio ti aspetta, sa vota ma fa una risata scugnata, sa gianca pascova e sa